Ah, io sei vivo ancora. Sto corrispondendo così, io sono vivo, impegnato ero. Ma ieri ho acceso ieri dalle 7, ma non mi ha riposto nessuno. Vedi? Piazza sta accaduto che era lì, mi sembra alle 7:20, ho chiuso. Ma ho chiamato ieri, sino alle 7:15, poi la giovane sta di là. E avrei chiamato alle 7, magari 7:05. Ma io ero 7:20, ma cosa di sera ho chiuso ieri. Ma me l'ho immaginata, no? Insomma, ecco che c'era tuo figlio, tutto deve essere impegnato. Già entra una di questi giorni. Infatti, anch'io l'ho spento subito. Se n'è andata via sabato mattina, accompagnata, e poi sabato sera e domenica non c'ero, e quindi ho controllato ieri, ma non ha riposo nessuno. Evidentemente magari quando ha chiamato ho messo l'assistato, non ti ho sentito, però ero sempre, aveva acceso la fresca, sembra cioè, meno 5. Sempre qua, non ho messo neanche le cuffie, stavo guardando su, però vedevo lo smitter che era sempre a zero, dopo ho fatto un paio di chiamate e anche fischiato, non c'era nessuno, manco un amico, ma nel quale niente, avevo preso e spento il tutto, ho sentato il sole sarà impegnato, in cui loro. Ma io se già andavo così, già va bene lo stesso. Si va da bene, si può per tempo. Ecco, devo fare, allora, che non mi chiedo, uno si deve fare il sagomaro, ma cazzate in genere, no? Se uno è impegnato, certo, se mancherebbe altro, certo. E anch'io, no, quando sono impegnato, non è che accendo l'apparecchio, no? Non saranno. Prima il dovere, dopo il piacere. Infatti, fate così. No, ci andiamo bene lo stesso. A Maragama, devo vedere. Infatti adesso, era successo ascoltare Antonello, perché era Antonello con un altro in USB. Poi qui ci faccio su un 23 perché si chiama Vittore. Eccoci qua, io vado due colpi di portante e andiamo ai ritorni. Ma sa da delle vada le mani? Vabbè. Acqua di ieri se ti è bastata. Aspetta un attimo. Dai, dimmi adesso, scusa. Se l'acqua di ieri ti è bastata. Ne deve fare ancora, cazzo, ne deve fare. Però ho visto che in certe zone il diluvio che ha fatto. Infatti ha fatto il vedo buro. Nel passato ha fatto un bel danno, ha fatto. Ha visto che è tutta allagata, tutta le strade allagate. Qua no, qua sì, mi ha fatto, però non è come che in questi punti, capito? In questi punti gli ha fatto parecchio. Cazzo, ma ho visto un paese, non so, dov'era, c'era Alghero, dov'era, era tutto allagato, tutti i gusti allagati, quindi da terreno. A Nufi era allagato, a Coso. L'altra vicino è la laga di Romatesi, in altro paese burro allagato. È un bel fosse allagato, così che e lì ha scaricato parecchio, Qua figli ha fatto, ma non era un granché, capito? Sì, infatti è così, ha allagato un sacco di posti, allagato, non gli è passata. Ma invece di lampalla ha fatto nei paesi dove non doveva fare. Ma è così, è purtroppo lo sai. Sai com'è? Dove deve fare non le fa, le fa dove non le deve fare, si sta rubito, ha rivento. Fate così, va bene. Ma non basta. Va bene così. Vabbè, come si sa, si era per dirmi. Ebbene, spesso come sono andato? Ah, già sono andato bene. Una roba si veda un po', ce l'abbiamo cavata un po'. Bene, così allora. Va bene. Allora, già fine è partita quindi. Sì, a Londra è. Dovrebbe a trovare appunto. Purtroppo. Purtroppo. Lavoro è la cosa importante, so. Lavoro è la cosa importante, uno quando lavora è la cosa buona. Sì, sì, è una cosa buona. Su questi è così, purtroppo. È così, Certo, se avrebbe trovato lavoro qua sarebbe stato meglio. No, non mi piace, no, che ti è pagato poco in oggi. Per quello che fa lì è pagato poco. E vabbè. Può essere buono, può essere non tanto buono, però meglio franchino che tu vivi a fula. A che manca sono in casa mia? Ma che dai, è pagato il triplo, è pagato il lavoro che fa lì. Se no che è pagato 600 euro. Oh, è già una cosa buona, almeno ci fai i quattrini là, un po' di quattrini se li fa. Ah, il lavoro che fa lei sono dalle 2.000 a 3.000 euro, 4.000 euro che può prendere. E vabbè, si paga l'affitto, luce, gas, eccetera, e cazzo, rimane ugualmente, dai. Sì, no, non si paga tutto di delle cose. No, l'affitto c'ha insieme alla luce, l'acqua non la paga, neanche la tassa mondezza paga, perché ce l'ha tutta assieme con l'affitto. Oh, che se mette in tasca qualche cosa, va? Sì, no, quello sì, è a buia. Solo che si deve guadagnare per poter vivere. Il lavoro lo ammazza nessuno, so. Il lavoro lo ammazzato mai a nessuno, purtroppo. Devi lavorare e basta. E quando uno c'è il lavoro e c'è la salute, va bene dappertutto. Purtroppo è che il lavoro è difficile che si possa arrivare a molte volte fallire, sono troppo molto pesante molte volte. Ecco cosa è, però ho visto che già si faccio fa ugualmente. Se tu ci pensi, ma che sto facendo di su a travagliare Luca, anche se pensassi, certo. E cada giorno vincello, cadava a carracatore trafitte, fa due giorni, eppure andava a chiedere i soldi, noi una volta ci c'era travaglio pesanti, però purtroppo adesso è così. E adesso non ne carrare più a cosa un cantone. Ah va, già su per la cruce, si butta proprio al punto di affa, e cosa fai? Che è un gioco a fare il travaglio, va, si forma un travaglio quasi a me prima. Infatti così, ah va, è un gioco così, una cruce, a riga, vicino di una riga, quindi, non fai altro, che per gli anni è come se ne andare un monte. E allora, invece prima saltava la cara, e la cara di regna, cazzo, al primo e secondo piano, cazzo, a coso, cazzo, e si va via, purtroppo si va via, ah, vai invece il signore, ah, va, gira, non possiamo fare, non fermo quasi niente, pure pulirà senza travagliare. Infatti. Vedi giovani a pensare così, no, se non è bene io travaglio, non vi travaglio io, ecco cosa dici. Fino a poi niente che non la cade travagliare, già però faccio per l'aiuta. Ma mi sa che hanno finito, mi fa così. Ma no, non ti sono detto più. No, che so, deve darsi marandato. Quattro, se no, non è da tenere più così, no. Cazzo, prima la bussava, l'hai capito? Tu Ida ha regalato lo sacco e Ida fa chiamata dello sacco e si rimagnava. Allora, finendo i discendenti. Era una. Era una. Non vedi niente, hai chiamato a Iadro quel travaglio. E perché ha lavorato, e che ha famigliato a lavorare, a rischiare, a tirare la danza, ma non vedi niente a me, già per mamma e papà, si ricappa. Ma non deve essere così, deve essere che da che maniera a fare, no, di così a conto di papà e mamma, anda così. Se vuoi avere denaro devi travagliare, vai a tenere i travagli. Ok, otto, sono gente, sta per due gente, chiuso. Ci sentiamo domani, vi sei concilio, ok. Ok Gianmari, ci risentiamo, alle prossime, ok, ciao Gianmari, stammi bene. Ok, ciao, chiuso.